Non hai mai fatto scelte sbagliate, non hai mai fatto male a qualcuno, solo per il gusto di provare. Io che ho fatto tante cazzate, ho tradito me stessa e qualcuno, però non ho mai tradito te. Sono stata al buio senza luci guida, sono stata al freddo senza oro sulle braccia, tu la colla sotto un foglio che il vento si porta via, uno schiaffo che non lascia viola in faccia. Ci siamo fatti tanto male, male, male, male, siamo andati dritti al fondo senza toccare, e cammino sopra un filo rosso che si spezza e non sai con me resti sempre. Ora chi scalderà le tue lacrime fredde come roccia da Milano, solo per calmare dipendenze. E non basterà più fare finta, contentarci di vita che scorre, dare un senso a ogni sconfitta. Tu hai odiato ogni rimpianto, ogni bugia, hai voluto bene senza dopo chiedere, ma in conto tu non hai una strategia, sei un taglio che non fa mai sanguinare. Ci siamo fatti tanto male, male, male, male, siamo andati dritti al fondo senza toccare, e cammino sopra un filo rosso che si spezza e non sai come me resti sempre. Ci siamo fatti tanto male, male, male, male, siamo andati troppo in alto senza scendere, e non chiedi mai aiuto, prima o poi si spezza la tua voce, non sai come. Tanto male per sentirci bene, tanto vale che stai qui da me, ma non mi vedi, ho perso il conto di troppi bicchieri, mi sembra ieri che mi specchiavo solo sui problemi. Ci siamo fatti tanto male, male, male, male, siamo andati dritti al fondo senza toccare, e cammino sopra un filo rosso che si spezza e non sai con me resti sempre. Chiedi mai aiuto, prima o poi si spezza la tua voce.